tempo di sport. Le 14 in punti ha recuperato la Juventus nella classifica di vertice, 3 il Chievo nella corsa alla salvezza, ma quella di ieri, domenica 1 marzo, è stata innanzitutto la giornata del Catania. 2 anni che non vinceva fuori casa, beh, insomma, valeva la pena di aspettare tutto questo tempo, come si legge stamane sul sito della società, per andare a vincere 4-0 niente meno sul campo del Palermo, la partita più sentita dell'anno, segnando tra l'altro un gol che resterà certamente negli annali. E mi pare che questo sia proprio il bello del calcio, no? Quello che ne fa il gioco più divertente, più imprevedibile che ci sia, perché si può far gol da quasi metà campo in quella maniera incredibile, con una prodezza assoluta, una prodezza prima di inventiva e poi di realizzazione, prima la testa e poi il piede, ma in una frazione di secondo. E si può invece sbagliare un gol incredibile come quello che ha sbagliato Cozza in Regina Fiorentina. Non so se avete presente la sequenza: salta, stacca da solo di testa praticamente in area, ma a 4 passi dal portiere, lo centra in pieno e da lì la porta è grande come un condominio, eh? Comunque becca in pieno Frey, la palla però gli ritorna, Frey a terra e a quel punto non è più un condominio, è un, non lo so, studiate voi uno spazio immenso. Ebbene, Cozza invece di toccare la palla in porta, ma proprio di sfiorarla soltanto, tira una cannonata incredibile in girata da un metro e mezzo e centra la traversa e non riesce a fare gol. Tra Mascara e Cozza c'è tra Mascara e Cozza, non come valori assoluti, ma per quello che si è visto ieri, che è successo ieri in queste due situazioni, c'è in mezzo tutto il calcio. Sentiamo subito l'omaggio, apriamo con un omaggio al Catania e a questa prodezza assoluta di Mascara. Intanto partiamo dalla cosa principale, che finalmente questa benedetta vittoria fuori casa dopo quasi 2 anni. Era nell'aria, perché fuori casa avevamo fatto delle buone prestazioni. Solo il timore a volte inganna l'effetto e non riusciamo a portare i tre punti a casa. Oggi diciamo che abbiamo fatto una gara abbastanza buona, con i ritmi giusti e diciamo che ce la siamo meritata. Per quanto riguarda il gol, un sapore doppio, perché in un derby, una partita del genere, adesso ce la godiamo tutta perché ci sta. Magari ci sarà tempo anche più tardi poi di sentire anche la ricostruzione di Zenga su questa vittoria, su questo momento del Catania, visto che è pur sempre lui l'allenatore, dunque l'artefice primo di questa impresa che, ripeto, resterà negli annali del calcio isolano certamente, perché sia l'impresa del Catania che la debacle del Palermo non credo che le rispettive tifoserie le potranno mai dimenticare. Finito il bello, passiamo al brutto, cioè alle violente polemiche seguite al 3-3 di San Siro. Anche se la partita è stata bella e il primo tempo della Roma in particolare, direi bellissimo, come minimo proprio. Poi ci sarà la crisi del Milan e ci saranno molti altri spunti. Sentiamo che cosa è accaduto nel dopo partita, che ha notevolmente peggiorato la qualità di quello che si era visto in campo, ascoltando le interviste lunghe per capire l'accaduto e per capire quanto la tensione e direi anche la partigianeria in certi casi, soprattutto nel primo, possa eccitare gli animi. Sentiamo prima di tutto Mourinho. Un punto è oro, perché quando tu perdi 2-0, 3-1 contro un'equipe di altissimo livello, non è lo stesso che perdere 2-0, 3-1 contro una squadra senza qualità e che tu puoi recuperare con più facilità. 2-0, una grandissima reazione, 2-1, un terzo gol che... tutto il gol è un gol senza grandi commentari. Perdiamo la palla di un modo naif, dopo c'è un fallo netto di Battista a Cambiasso e dopo c'è l'inserimento di Brighi, che è bravo in questo tipo di situazioni che noi conosciamo, e lui segna il 3-1 che in condizioni normali, con una squadra con una mentalità normale, la partita è persa. Una squadra che ha avuto una settimana dove io stesso mi sembrava che la partita contro la Roma era una partita piccolina. La partita con Manchester è stata una partita di una dimensione psicologica, fisica, di una tensione emozionale così alta che dopo di mercoledì fino a oggi sembrava che l'Inter giocava contro una squadra piccola e non era vero. L'Inter giocava contro una delle migliori squadre di Serie A e per questo mi sembra che questo punto in questa situazione è un punto d'oro che la mia squadra merita e un punto importante. Un paio di valutazioni avete sentito di Mourinho sugli episodi incriminati hanno suscitato la reazione di Spalletti, che in genere è abituato a prendere la circonvallazione pur di controllarsi. Ieri sera invece l'autocontrollo l'ha perso. Sentiamolo. Chiaro che c'è l'amarezza per un risultato perso che la squadra si era guadagnata sul campo e di conseguenza diventa difficile essere contenti, essere tranquilli. A me dalla panchina mi è sembrato che si buttasse, ora ho la conferma. Poi è chiaro che sia fortuna, sfortuna dentro una partita. Io penso che per una partita condotta in questa maniera la mia squadra meritasse poi il vantaggio dell'episodio che non sai dove direzionarlo. Ecco. Sentivo poi anche commenti che qualcuno diceva era il rigore. Dobbiamo far smettere di parlare tesserati, perché se no si rischia di far confusione, perché quelli che stanno zitti poi passano da coglioni. E da coglione non può passare nessuno. Partita chiusa sul 2-0, riaperta giustamente dal ritorno dell'Inter, poi richiusa, partita chiusa, se non c'è l'episodio strano come questo, partita chiusa. Poi è chiaro che si vede, ti prendono anche per il culo, per cui fanno bene a far così, perché poi è abbastanza evidente. Noi 4 anni che veniamo a giocare qui con me, abbiamo, diciamo, nella disputa della valutazione dell'episodio siamo sfortunati. Non è una, cioè è una rabbia quella romanista, e poi sentiremo anche De Rossi, è una rabbia legata certamente a ieri sera, o meglio che parte da ieri sera, ma mi sembra più una rabbia d'accumulo soprattutto, no? Infatti Spalletti alla fine ha ricordato che nelle ultime uscite a San Siro, Coppa Italia compresa, non molto tempo fa, qualcosa da discutere c'è sempre, però su quel qualcosa da discutere la valutazione è sempre in una direzione sola, e non c'è dubbio che questo a gioco lungo possa, ripeto, far perdere la pazienza, far perdere la plomb a uno come Spalletti, che, ripeto, la prende in mille modi, circumnaviga, subordinate, coordinate, e trova sempre il modo di controllarsi. Stavolta non si è controllato e ha detto le cose, insomma, come poi si possono anche dire, magari non davanti a un microfono, ma come si parla in fondo nel mondo del calcio, e non solo in quello, anche nel mondo comune. Vedo già un display popolato di ascoltatori. Il primo è Mario da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Io volevo dire, non spetta a me sicuramente giudicare i comportamenti di Balotelli, perché sono sotto gli occhi di tutti e quindi vabbè, lasciamo stare. Però volevo dire che un ragazzo di 18 anni che si sente fare dei bu razzisti, non dalla tifoseria romanista ma da quei pochi deficienti che sono all'interno della tifoseria romanista, che non più tardi della partita di andata avevano detto che un nero non può essere italiano, lo capisco se zittisce quando segna il rigore i tifosi romanisti, o perlomeno, come dicevo, quei pochi deficienti. Poi volevo ricordare anche che due grandi campioni che io amo, come De Rossi e Totti, in un derby anche a Milano, una volta ciascuno con le fasce da capitano, sono andati a esultare sotto la curva dell'Inter con le mani dietro le orecchie. Detto questo, volevo dire la cosa più bella che ho visto. C'è un po' di differenza, a parte il fatto che non può essere un derby se è a Milano contro l'Inter, no? Se riguarda la Roma ed è a Milano contro l'Inter, è difficile che sia un derby. Totti ebbe a mettere le mani dietro le orecchie dopo aver segnato un grandissimo gol. Ma questo lo fanno in tanti, peraltro, cioè il gesto del dell'orecchio, cioè del adesso fatemi sentire cosa dite, ormai lo fanno, ormai è diventato, mi pare, un'abitudine, che poi sia gradevole o meno si può discutere, ma non mi sembra paragonabile all'altro. Se Balotelli ieri sera, distinguerei tra i comportamenti, il fatto che lui abbia zittito una frangia, l'ha detto bene lei, non una tifoseria intera, ma una frangia di tifoseria che si stava comportando in maniera razzista, ha avuto una reazione assolutamente legittima. La reazione successiva che ha avuto invece nei confronti dei giocatori della Roma dopo un rigore diciamo procurato e trasformato, beh, quella no, quella non è una cosa ammissibile per il mio Mario. Grazie. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie mille signor Garanzini, lei è sempre gentilissimo e coerente. Due cose velocissime: il mio povero Milan è messo male, lei pensa che ce la possiamo fare entrare in Champions? E poi sentivo il signore prima su Balotelli, vorrei un'opinione sua, io dico è un bravissimo ragazzo, un bravo giocatore, avrebbe bisogno di qualcuno che gli insegni un attimino alcune regole del calcio, tutto qua. Sì, comincio a pensare, più ascolto Mourinho e più penso che non sia la persona più indicata per educare un ragazzo, no? Visto che qui si tratta proprio di carenze di fair play, di carenze di saper stare in campo, non certamente di qualità tecniche. Io credo che basti vederlo muovere Balotelli per il campo per capire che ha il calcio nel sangue questo ragazzo, perché fa delle cose difficili rendendole semplicissimo. Anche il modo in cui calcia il pallone nel primo gol non c'è niente di impossibile in quella esecuzione, però la sua è assolutamente perfetta e rende quell'interno destro di prima, in un momento in cui tra l'altro l'Inter non l'aveva ancora beccata proprio la palla nell'intera partita, lo rende di una semplicità disarmante. Il problema è che Balotelli non ha soltanto il calcio nel sangue, anche il bullismo nel sangue, e questo mi sembra di tutta evidenza, no? nei suoi comportamenti. Ripeto, sì, ci vorrebbe un educatore, ci vorrebbe qualcuno che se ne facesse carico. Arriverà, prima o poi arriverà. Quello che c'è adesso, ripeto, non mi sembra il più indicato, poi magari invece sarà il miglior maestro possibile. Dalla provincia di Roma, Oreste, buongiorno. Buongiorno Sergio Arancini. Dica. Buongiorno. Senta una cosa, io volevo intervenire per quanto riguarda la Moviola in campo. Ecco, io volevo dire questo, a proposito dell'episodio di ieri sera con la partita Inter-Roma, ma non trova che se l'arbitro non avesse dato il rigore la partita sarebbe cambiata? E comunque io sono sempre dell'avviso che la Moviola in campo ci serve. Sì, dunque la Moviola, se non dava rigore la partita, lei dice, sarebbe cambiata. La partita non sarebbe cambiata, come diceva giustamente Spalletti prima, perché la Roma l'aveva richiusa e quindi probabilmente non sarebbe cambiata più. Se lei avesse messo in campo la Moviola, avrebbe, a parer mio, avrebbe lasciato 10 minuti buoni di discussioni, di mani addosso in campo e fuori, no? tra i campioni del fair play che c'erano in campo e i galantuomini delle curve in particolare, che avrebbero avuto simpatiche scambi di opinioni mentre gli esperti o l'esperto o non so chi o il gran giurì d'onore sarebbe stato chiamato a interpretare quell'episodio che invece si interpretava benissimo una volta sola a velocità normale, perché si vede chiaramente che Balotelli si lascia andare, si vede chiaramente che De Rossi leva la gamba e che quell'altro si lascia andare ed è già in volo prima. Quando poi invece lei con l'uso della Moviola scompone quell'immagine e la ripropone rallentata ossessivamente, come per esempio ho visto nella telecronaca di Sky, non fai chiarezza, semmai ti vengono dei dubbi. Questo lei, non ho la pretesa che questo sia il Vangelo, però questa è la mia opinione. Più vedo utilizzo di Moviole e più questa mia opinione si rafforza, e quindi visto che si è rivolto a me, la risposta non può che essere questa. Da Roma, Damiano, buongiorno. Buongiorno e complimenti. Le volevo fare due domande veloci. Tatticamente, come ha visto la partita di ieri tra Roma e Inter, e che cosa ne pensa dell'intervista che ha rilasciato Panucci e quanti punti è costato Panucci alla Roma in questi giorni di assenza? Grazie. Dunque, ecco, questa mi sembra già più interessante come domanda. Che cosa ho visto ieri sera? Ho visto la Roma dei tempi migliori. Ho visto il replay nel primo tempo di Inter-Manchester, con la differenza che la Roma era più concreta del Manchester, l'ha dimostrato andando fino in fondo in due occasioni, potevano essere forse anche di più. Poi ho visto che, come spesso accade, la Roma ha delle flessioni e se non è appena cara di intensità con quel suo gioco splendido, divertentissimo, spettacolare, appena cara diventa vulnerabile. Però ieri sera era stata brava la partita a richiuderla, cioè ad andare sul 3-1, a differenza di altre occasioni. Panucci ha giocato, considerando che era fermo tantissimo tempo, ha giocato una signora partita, ma questo non era un grande dubbio, nel senso che il valore di Panucci rispetto all'età è ancora alto, il valore di Panucci calciatore, cioè in campo, il valore di Panucci persona o personaggio sappiamo da tempo che non è perfettamente in sintonia. Ho rivisto 20 secondi fa il gol sbagliato alla Cozza ieri, quello che vi raccontavo all'inizio è assolutamente incredibile. Più lo rivedo e più mi sembra incredibile. Sono David da Prato. Negli anni 60 Charles prese a schiaffi Sivori, ed era Sivori, per educarlo, perché nessuno all'Inter lo fa per Balotelli. Beh, lei ricorda un episodio molto, molto lontano, sono passati ormai 50 anni, i due protagonisti non ci sono più. Era una situazione diversa però, nel senso che Sivori in campo aveva, a parte che Sivori è stato uno dei più grandi di tutti i tempi e uno dei più espulsi in Italia, perché ha un caratterino di quelli veri. Era però il contrario di Balotelli, è gelido, no? in questi atteggiamenti. Sivori invece aveva crisi isteriche vere e proprie, quindi fu in una di quelle crisi che il suo amico vero del cuore, Charles, a un certo punto gli mollò un lordone proprio per farlo risavire, perché stava sbroccato completamente, aveva proprio un'autentica crisi isterica. Non fu l'unica, altre volte lo trascinarono via, ma quella volta Charles, lo ricordo, gli diede una sberla vera e propria, e difatti è rimasta nella storia. Alessandro ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, un saluto a lei Garanzini, un buon pomeriggio a tutti. Dunque, io nutro delle forti perplessità sullo staff tecnico sanitario del Milan. Io penso che la stagione del Milan così negativa sia da attribuire fortemente. Io non riesco a capire. Io un paio di giocatori so perché si sono fatti male, gli altri io non lo so. Cioè, questi sono professionisti, sono atleti, c'è uno staff di preparatori atletici, ci sono i medici e ci sono persone che non hanno neanche giocato e sono infortunate. Ma è una cosa veramente incredibile. Secondo me buona parte ce l'ha anche tutte queste amichevoli inutili. So che adesso mercoledì il Milan va a fare questa amichevole, io non lo so, siamo diventati il circo, Dubai, andiamo a fare le amichevole per gli arabi, andiamo, io queste cose qua, le amichevole dovrebbero servire dal punto di vista tecnico per migliorare quella che è la condizione della squadra. Ormai siamo diventati, andiamo in giro a cercare solo soldi in questo modo, quindi il Milan raccoglie ciò che semina, questo che semina il Milan. Infatti Inter e Juventus, che non sono andate a fare il loro giretto a Dubai, stanno dal punto di vista atletico forse un po' meglio. E invece dice lei, il Milan ci torna pure. Perché, ecco, perché lei mi dica che adesso richiamo, invece di preparare la partita contro l'Atalanta di domenica, questi cosa fanno? Prendono e vanno a giocare. Un richiamo di preparazione. Ma Alessandro, insomma, sì, quello che dice lei è vero. Io condivido anche quello che lei dice sullo staff sanitario. Lo condivido un po' al buio, per la verità, perché tra i tanti mutamenti che il calcio ha avuto c'è anche quello legato alla privacy. Non è detto che sia sbagliato, per carità. Di sicuro per noi, io parlo da cronista una volta, per noi cronisti una volta era un po' più semplice raccontare come stavano davvero le cose, perché avevi accesso alle fonti, diciamo, andavi, soprattutto se avevi voglia e scrupolo, andavi a seguire gli allenamenti e ti facevi un'idea esatta, parlavi con le persone, parlavi con i giocatori, parlavi con i medici. Oggi tutto questo è diventato impossibile o comunque molto misterioso. Le società sono fatte da 10 volte tanto le persone che c'erano un tempo, proprio anche da un punto di vista numerico. Quindi poi ci sono i procuratori, insomma, lasciamo stare il perché, anche se l'habitat è quello. È diventato più difficile capire. Certo che tra tutte le cose da capire, quest'anno, a proposito di Milan, ce ne sono molte, da un punto di vista strettamente sanitario, che si capiscono davvero poco. Probabilmente ad incidere sul fatto, ad incidere su questo, c'è anche il fatto che l'età media della squadra non aiuta, perché credo sia abbastanza normale che più più vai avanti con gli anni e più gli acciacchi si possono moltiplicare. Ma certo, la gestione di qualche infortunio non è stato semplicissimo. Poi ogni tanto ci si mette anche la demagogia, perché adesso io non so che tipo di incidente davvero abbia avuto Cacà contro la regina, non so se ufficialmente è mai stato detto, io comunque se per caso l'ha raccontato non l'ho saputo. Nel giornalismo una volta sarei certamente stato in grado di dire che cosa si era fatto, come, perché e qual era la prima prognosi e come poi stava evolvendo. Nel giornalismo di oggi non lo si può più fare. Ma dicevo, perché la demagogia? Ma perché qualcuno, per fare fenomeno, ha trovato la maniera di raccontare due giorni dopo l'infortunio che Kakà avrebbe giocato contro l'Inter. E invece non solo non ha giocato contro l'Inter, ma si sono perse le tracce anche di Kakà adesso, e sinceramente, considerato il valore del giocatore, forse la cosa inquieta. Da Catania, Antonella, buongiorno. Buongiorno Garanzini, oggi le sono grata per due motivi, cioè le sono grata sempre per il programma, però oggi in modo particolare per la sua apertura, perché ritengo, conoscendolo un po', che sia stato specifico e ben preciso e mirato aprire senza parlare di Inter Roma, ma parlarne dopo. Questa magari è una mia sensazione. No, Antonella, è stata una libera scelta, non è affatto una sensazione. La squadra di ieri è una scelta, infatti la condivido. La condivido perché sono interista e sono abbastanza scocciata da un fenomeno di cui mi sono innamorata perdutamente calcisticamente, perché è un po' più giovane di me, e cioè Balotelli. Di Balotelli stiamo parlando tanto, però a questo punto, considerato, prendendo atto del fatto che l'ipotetico educatore, cioè il signor Mourinho, poi signore, tutto da vedere, non è assolutamente in grado, perché è anche peggio di lui, di educarlo, a questo punto forse dovrebbe intervenire il papà vero, ma non il papà vero adottivo, papà vero intendo Moratti, e intendo che dovrebbe intervenire in maniera molto dura, perché sinceramente lei ha utilizzato un termine giusto, bullismo. A 18 anni, da un esempio particolare, e io francamente non lo reggo più, cioè proprio non lo reggo più, mi dà sui nervi, e credo che non guarderò le partite in cui gioca lui, perché mi dispiaccio, no, proprio, adesso mi amareggio. Antonella, non esageri, io capisco, lei parla, evidente, l'ha premesso, lei parla da innamorata di un ragazzino e di un talento assolutamente raro, non dico unico, perché non esageriamo, di un talento raro non c'è dubbio. Capisco che ci sia questa reazione, soprattutto appunto se si fa mente locale a come dovrebbe essere, a come si immagina un ragazzino, no? con la sua freschezza, la sua ingenuità, come Santon per esempio, perché poi è indubbio che la vicinanza con Santon e l'affermazione che c'è stata nel frattempo di Santon ha nuociuto a Balotelli su questo piano, sul piano dell'immagine. Chissà che non l'abbia davvero anche sofferta materialmente, perché poi quando uno è fragile, e Balotelli che sia fragile, insomma, non ci vuole Freud per stabilirlo, quando uno è così fragile un esempio positivo a fianco può avere un effetto negativo, un effetto contrario. È probabile che sia successo anche questo. E adesso si tratterà di trovare il modo di non disperdere questo talento. Nel frattempo io sto rivedendo come ha segnato il suo gol ieri sera, quello su Azione, e ripeto, questo è uno dei pochi che hanno la grande capacità, la grande qualità di far sembrare facile anche quello che è difficile. Poi adesso sto rivedendo il movimento di Battista su Cambiasso e il mancato anticipo. Credo che soltanto un cialtrone possa inventare questo, possa dire che questa azione è fallosa. E questo cialtrone si chiama Mourinho. Roberto da Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo scendere in Serie B. In Serie B in che senso? Parlare di un qualcosa che magari al grande pubblico che l'ascolta interessa relativamente meno, ma però è una cosa, direi, campionato importante. E volevo parlarle soprattutto relativamente al discorso degli arbitri, degli arbitraggi. Gli arbitraggi, io sono anni che seguo il campionato di Serie B e noto con grande rammarico, e sono decine e decine i casi oramai visti, appurati, letti, eccetera, dove i famosi arbitri di Serie A, addirittura gli internazionali, quando scendono in Serie B hanno dei comportamenti direi a volte soprattutto presuntuosi, ma soprattutto secondo me non hanno la concentrazione e la voglia di arbitrare queste partite, a meno che non siano proprio quelle di cartello. Mm-hmm. La mia è una domanda, è una provocazione, magari sapere se condivideva questa scelta. Visto che è un campionato abbastanza importante, non sarebbe meglio far arbitrare ai cosiddetti arbitri di Serie B veramente questo tipo di partite e non far scendere quelli che di Serie B non si ritengono tali? Perché gli errori che fanno sono... Roberto, mi scusi, l'intervento è un po' lungo, abbia pazienza. Siamo a 2 minuti che francamente non ci sono arbitri di Serie A e Serie B, ci sono gli arbitri per la A e la B, cioè la CAN, gli arbitri che arbitrano una serie arbitrano anche l'altra, per cui il suo discorso si capisce cosa vuol dire, e cioè piuttosto mandateci quelli di seconda fila anziché quelli di prima che magari si impegnano meno. Credo sia abbastanza discutibile, ma insomma effettivamente di qualche disastrino in B l'hanno fatto, lo faranno, l'hanno fatto anche sabato a Modena, l'hanno fatto a Mantova sabato e va bene, ma non è che ci sono due categorie diverse di arbitri, cioè quelli che arbitrano in A arbitrano anche in B e viceversa. Antonello, chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io vorrei spezzare una lancia in favore di Balotelli, e questo mi costa tantissimo perché io sono uno juventino, quindi per un interista è un po' difficile. Comunque sia, nessuno ne ha parlato, ma guardi che la linguaccia che ha fatto Balotelli non era premeditata, in senso che la volesse fare dopo il gol, ma se lei guarda il replay, c'è stato Panucci che lo aspettava mentre lui passava, gli ha dato una spallata di proposito, e lui la reazione della linguaccia è dovuta a quella spallata che gli ha fatto Panucci. Antonello, Antonello, io ricordo un calcio in cui se tu avessi tifosi procurato un rigore buttandoti, l'avessi segnato e poi avessi fatto la linguaccia a Blason o a Scagnellato o ad Azzini o a Rosato o a Burgni, vengo avanti nella genealogia, la partita di ritorno era meglio che non la giocavi. Adesso tutto è cambiato, tutto si vede, tutto si può interpretare e tutto può succedere, ma ripeto, a 18 anni non è il caso, e questo credo che sia un... anche se un avversario può non aver preso bene il fatto che tu ti sia buttato e abbia procurato un rigore, può capitare, no, che un avversario non gradisca. Torniamo in onda mentre si susseguono messaggi, interventi, prenotazioni telefoniche, mail. Cacca mi scrive un ascoltatore a nome Gaetano La Rovere: ha subito una distorsione ma anche un colpo doloroso su un ossicino della caviglia, fondamentale per la stabilità del piede. Ecco perché il prolungarsi dell'assenza dei campi. Fonte: un conoscente dello staff medico rossonero. Io ringrazio molto Gaetano La Rovere, ma vede che lei mi conferma quello che stavo dicendo prima. Una volta questi conoscenti degli staff medici rossoneri non sapevamo chi fossero, perché noi andavamo dallo staff medico rossonero, noi cronisti del tempo andavamo allo staff medico rossonero e facevamo una domanda impossibile, dicevamo: come sta Cacà? Cioè, che problema ha Cacà? Poi andavamo da Cacà e gli dicevamo: Cacà, come si fa vedere, che ossicino è? E sapevamo tutto e raccontavamo tutto, ma in tutto questo secondo me non c'era questa enorme violazione di privacy, no? Io credo anche, anzi, che fosse una maniera corretta di fare informazione. Oggi non, questo tipo di accesso non c'è più, gli allenamenti non si possono seguire, e quindi qualcuno ci perdonerà se ogni tanto raccontiamo qualche fesseria, perché è inevitabile. È inevitabile ed è indipendente dalla nostra volontà. Severino, Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Una cosa iperveloce per inciso, perché purtroppo sto lavorando, anzi purtroppo bisogna. Sì. Volevo solamente intervenire sul discorso Balotelli. Vabbè, sì. Ritengo che il gol che abbia fatto, che abbia realizzato di piatto destro, sia un gol che tutto sommato, insomma, non mi sembra di dover santificare come un gol inimmaginabile. No, chi ha detto questo? Dopo gliene faccio sentire uno da Sky che è santificato in altra maniera. Io ho detto che era una bella esecuzione, perché lui ha la dote di far sembrare semplice quello che semplicissimo non è. Potrebbe averne ancora di più di doti se fosse un attimino, probabilmente a un discorso di educazione che ritengo che non abbia. Questo dovuto, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto della sua famiglia, ma evidentemente non gli è stato inculcato un modo di comportarsi adeguato con altre persone, insomma, che poi possono essere giocatori piuttosto che in privato, e questo glielo dico perché mio figlio è un amico di Balotelli, tutto lì. Ah, quindi le fonti, oggi è la giornata delle fonti e delle cose. Sì, Balotelli è un ragazzo che ha qualche problema di comportamento, Severino, su questo insomma, non c'erano misteri prima e tantomeno ce ne sono dopo ieri. Credo che la sua carriera, o perlomeno il sorgere di questa sua carriera, sarà segnato da questi continui, no? da questo continuo distinguere tra le qualità di calciatore e i limiti invece di persona, sperando che prima o poi riesca a far convivere l'uno e l'altro. Sarebbe un bel colpo per il calcio italiano anche, no? visto che giovani di quel talento e di quel fisico, tra l'altro, non abbondano. Però stiamo a vedere. Possibile non ci sia qualche milanista che voglia di parlare di Beckham e del fatto che domenica prossima gioca la sua ultima partita in Italia, credo, e che tra i tanti altri problemi che ha il Milan c'è anche questo bivio, no? Tra una settimana, di decidere entro una settimana, di decidere se tenerselo o se restituirlo, se investire, non investire. Sembra carina come spunto. Giuseppe, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Guardi, io sono un tifoso del Palermo da 25 anni, sì. Volevo fare i complimenti a Catania, un grandissimo Catania, sicuramente più determinato del Palermo. È entrato con la testa sul collo perché ho visto degli interventi da parte dei giocatori del Palermo più sulle gambe che sul pallone proprio nei primi secondi, quindi faccio i complimenti a Catania, anche se ricordo volentieri un 6-1 di 5 anni fa in casa con gol di Cappioli di 40 metri, ma queste sono parentesi del cuore, diciamo così. Sì. Poi ci tenevo a dirle che lei non ama parlare forse degli errori degli arbitri, però ogni domenica ci troviamo sempre a dover parlare di partite indirizzate da persone che sono lì a giudicare. Per carità, io sono contrario alla moviola, a tutto, giudicare in pochi momenti è difficile, però è un problema che bisogna affrontarlo, in qualche modo bisogna affrontarlo, perché i presidenti mettono dei miliardi, anche se non è più un gioco del calcio se uno mette dei miliardi, però c'è anche il tifoso stesso che ha un abbonamento alla TV, allo stadio, si scoccia perché vede. Giuseppe, io credo che si scocci anche il tifoso della Regina, mi spiego. Cozza è un giocatore che ha sposato la causa della Regina, è l'anima e l'emblema di quella squadra. Questo per dire che il più rammaricato ieri di quel gol incredibile sbagliato un metro alla porta è certamente Ciccio Cozza stesso, è lui medesimo, no? Non è nessuno dei tifosi della Regina. Però l'errore di Cozza ieri a un metro alla porta della Fiorentina vuota e spalancata è 100 volte più incomprensibile di un qualsiasi errore arbitrale, compreso il fatto che ieri Rizzoli, vedendo che De Rossi il piede lo mette, lo toglie, però poi lo toglie ed equivoca su quello, Motta leggermente stringe, ci casca e dà rigore. Bene, commette un errore che è un centesimo o un millesimo, insomma quello che vogliamo, comunque che è infinitesimale rispetto a quello che commette Cozza. Perché quello di Cozza deve essere in buona fede e quello di Rizzoli no? È questo che non riesco a capire. Il giorno che dimostreranno che quello di Rizzoli è un errore in malafede, ma non credo sia dimostrabile, mi auguro di no e ne sono certo, allora cambiamo tono, se no il tono dovrebbe essere questo a parer mio. Lorenzo, provincia di Grosseto, buongiorno. Buongiorno Garanzini e grazie per la sua trasmissione quotidiana che ci aiuta a ragionare. Volevo dire due cose, uno sul rigore dell'Inter e uno sul gol, non gol del Milan, preso dal Milan. Cominciamo da quest'ultimo, io sono milanista. Quindi sono d'accordo con lei con il discorso di Beckham, cominciamo a rinnovare un pochettino la squadra in generale, a fare mettere dei giovani eccetera, però uno che fa i cross così poi per Boriello quando ritornerà, insomma, fa comodo, ecco. O troviamo un altro che è capace di fare i cross, perché io cross dal fondo come li fa Beckham, come li ha fatti ieri, non è che ne vedo tantissimi nel Milan. Comunque, il però, gol, Lorenzo, gol... Lorenzo, mi scusi un attimo, però ieri quando è uscito Beckham ha avuto delle partite eccellenti e tutti ci siamo cavati il cappello. Adesso sono 2-3 partite, insomma, è una fase in cui mi sembra che sia abbastanza rientrato nella norma. Ieri quando Beckham è uscito dal campo, il Milan a momenti pareggia, comunque ha occupato stabilmente la metà campo avversaria. È una coincidenza secondo lei o no? Che Beckham è importante, ecco, perché uno che fa i cross come Beckham non ce n'è nella squadra del Milan, perché di là c'è Jan Kulowski che ogni tanto li fa, però non è che fa tantissimo. Ieri Favalli ha pittato per la testa di Pato, però Favalli quanti anni ha, Garanzini? No, sì, ma costa meno, cioè, però dobbiamo cominciare a pensare che la squadra è una squadra che siamo over, certo. 30, certo. È over 35. Invece Beckham e Juniores? No, compreso lui, però finché c'è lui, teniamocelo, ecco. Ma allora io non ho telefonato per questo, per una cosa. Rapida però, Sì, velocissimo. Uno, Abbiati c'ha i piedi dentro la porta quando c'è il tiro, sì. La testata di Cassano, sì. Ecco, quindi quando lui respinge coi pugni, la palla è già dentro, non importa dove rimbalza, ma il gol è quando è ancora in aria la palla. Sì, prima Lorenzo, cosa. va bene. Poi la seconda cosa per l'Inter, cioè, il fallo non è quello del piede di De Rossi o no, ma è l'ancata o non ancata di Motta. È inutile che i giornalisti continuino a guardare se c'è il piedino o non c'è il piedino, se si è buttato o no. Lorenzo, l'arbitro ha indicato il Lorenzo fallo... grazie davvero, grazie della compagnia. Daniele, provincia di Ravenna, buongiorno. Lo dico non certamente perché Lorenzo sia antipatico o sgradevole, tutt'altro, anzi era pure simpatico, però siamo sempre lì, cioè se c'è una fila di persone dietro si cerca di accelerare un tantino, no? Proprio per dare spazio agli altri. Daniele, provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, grazie di esistere. Senta, io volevo dire una cosa, io sono di origine siciliana, io ho visto il derby, complimenti a casa e tutto quanto, però un arbitro che lui dice che è internazionale, ma io sono i miei dubbi, ma al di là di questo io dico, si può buttare fuori e rovinare un derby dopo 10 minuti? Si deve buttare fuori, quando uno entra a quella maniera non è che si può buttare fuori, si deve buttare fuori, e Rosetti è stato bravissimo a buttarlo fuori. Il problema non è Rosetti, il problema è come è entrato Bresciano. Sì. È un'altra cosa, si parla, sì, di fonti. Io ho un po' di giorni chiesto con la moglie di Beckham, lui mi ha garantito la moglie di Beckham che rimane a Milano. Grazie a lei Daniele, ogni tanto mi sfugge qualche botta di ironia, questa forse anche perché la linea è disturbata. La storia di Beckham mi incuriosiva per questo, ed era per questo che per questa ragione che mi sarebbe piaciuto sentire un intervento di un milanista o di più milanisti, perché il Milan a questo punto può ragionevolmente provare a difendere il terzo posto, magari il quarto, e non è un'impresa semplicissima per come stanno giocando Roma e Genoa, per come sta facendo punti la Fiorentina e per come sta giocando Roma e Genoa, che mi sembra sia una discreta differenza. Comunque non sarà facilissimo. Allora, cosa sceglie il Milan da qui a domenica prossima, giorno dell'ultima partita annunciata di Beckham? Lo lascia andare perché nel frattempo si è scoperto che la squadra ha ben altre esigenze, ben altre carenze, e quindi in prospettiva non vuole spendere questi 10 milioni di euro circa, e quindi si indebolisce ulteriormente sul presente, oppure invece, proprio perché ne ha bisogno adesso, spende 10 milioni di euro che non avrà più da spendere l'anno prossimo per tappare falle vere e si mette in casa quest'altro giocatore anziano sia pure di talento. Secondo me è un bel dilemma, e non credo che lo risolveremo oggi. 2 marzo, sentiamo che cosa è accaduto nella storia dello sport in questa giornata, ce lo racconta come sempre Nicola Filippone. Sembra ieri. 2 marzo 1947. La Juventus, seconda in classifica alle spalle del grande Torino, ospita al comunale il Milan. E il tecnico Renato Cesarini affida a sorpresa la maglia numero 9 al 18enne Giampiero Boniperti. Il debutto del futuro capitano non è però fortunato. Il Milan si impone per 2-1 e il giovane Boniperti paga lo scotto dell'esordio fallendo un gol semplice. Ma avrà modo di rifarsi. L'8 giugno, contro la Sampdoria, arriverà la prima delle sue 178 reti in maglia bianconera. Reti che contrassegneranno 14 anni vissuti da leader. 2 marzo, il debutto storico di Boniperti con la maglia della Juventus. C'è anche un altro, questo è un anniversario storico, evidentemente questa è la storia. Nella cronaca, questo 2 marzo, è anche un altro anniversario che mi ha segnalato sempre Nicola Filippone, che è uno che ama la statistica. È il primo anniversario dell'Inter senza rigori contro, nel senso che l'ultimo rigore contro l'Inter fu assegnato il 2 marzo di un anno fa in un Napoli-Inter. E tra l'altro Zalaieta lo sbagliò, se non ricordo male. Claudio ha chiamato da Mantova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, dica. Saluto lei e tutti i suoi ascoltatori. Grazie. Niente, io volevo solo far notare, sottolineare il fatto che è vero, fermo restando il fatto che Balotelli è da stigmatizzare per alcuni suoi comportamenti, dovuti forse alla maggiore età, però per l'educazione direi che certi campioni conclamati, vedi lo stesso De Rossi ieri sera, abbiamo letto tutti il labiale nei confronti del signor Rizzoli, o il signor Totti, sempre nei confronti del signor Rizzoli l'anno scorso, non sono degli ottimi maestri per questi giocatori. Quindi è vero stigmatizzare e rimproverare Balotelli, ma bisognerebbe anche riprendere di più questi grandi campioni che solo perché hanno il conto in banca più gonfio non si devono permettere di essere così maleducati in campo. Maleducato Balotelli, ma molto più maleducati alcuni giocatori che si sono comportati in questa maniera. La ringrazio, ascolto il suo commento per radio. Buona. Grazie Claudio, ho poco da commentare. Stiamo parlando di un ragazzo che deve crescere. Quegli altri, nella sua ottica, sono già delle mele marce. Nella mia sono... nella mia, in quella più normale, si comportano più o meno come si comportano tutti i calciatori italiani, più o meno tutti, in maniera ineducata. Questo è uno dei tasti su cui Lippi, per esempio, batte più frequentemente e a buon diritto, anzi a buon dovere, nel senso che è giusto dirlo, è giusto farlo notare. Quando si ha quando invece si parla di un ragazzo che sta crescendo ed è così dotato tecnicamente, beh, è inevitabile fare dei paragoni, ripeto, tra la villania, tra il bullismo di Balotelli e la pulizia, no? di Santon, per esempio, di Pato. Sono ragazzi della sua età, chissà, è normale chiedersi perché quelli debba comportarsi bene e questo debba comportarsi male. Non mi sembra che ci sia niente di così incredibile. Gianfranco da Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini, sono d'accordo con quello che ha appena finito di dire lei al pieno, che il calcio giocato dai professionisti non è da prendere come esempio di educazione sicuramente, ma volevo solo dirle che dire del gol di Mascara, tutto qua, perché di Balotelli se ne è già parlato fin troppo. Certo. Saluto e l'ascolto per radio. Grazie, che dire gol di Mascara, che ripetere il gol di Mascara, perché siamo partiti da lì oggi e adesso non che possiamo fare un'edizione straordinaria per il gol di Mascara. Reso il giusto omaggio all'inizio, rimane il fatto che per Catania sarà un gol indimenticabile. Io mi immagino Mascara a fine carriera alla processione di Santa Rosalia portato, qualcuno mi sta facendo dire vetro che non è Santa Rosalia. Certo che è Santa Rosalia, che te, no, a Palermo. E allora la processione di Santa, boh, vediamo, secondo me è Rosalia, ma insomma poi vediamo. No, non sono pratico di santi, soprattutto non tanto di Sicilia, proprio è più in generale che ho questo deficit. Ma insomma, comunque sarà ricordato che chissà per quanto Mascara, certamente questo Sant'Agata, infatti, quindi ho sbagliato anche sul blog, è Sant'Agata, grazie a Pietro Lacorte che è pratico del territorio e quindi ha centrato Sant'Agata, quindi sarà questa allora la processione giusta. Domando scusa ai catanesi e ai siciliani in generale, anche i palermitani a questo punto, a Sant'Agata anche no, adesso non esageriamo. Domenico della provincia della Spezia, buongiorno. Sì, buondì, salve. Io sono un assiduo vostro ascoltatore e ogni tanto disturbo. Diciamo che l'unico appunto che si può fare a questa trasmissione, se mi posso permettere, leggero, sì. Che ogni tanto vorrei parlare di calcio, vero, dagli schemi alle giocate tecniche, alle giocate straordinarie che sono successe in tutte le partite ieri, in particolar modo in Inter-Roma, in Catania-Palermo, come si stava appunto. Invece si va a scadere sempre nella cosa che non porterà mai a nulla, o meglio, che non servirà più a nulla, che non servirà a niente mai, cioè il ripetere se era rigore o era, cioè non ha senso, cioè il calcio non è più questo. Io francamente continuo a sperare di parlare un giorno di calcio, ma dagli aspetti tecnici, da lì crescono i ragazzi, non certo del vedere la moviola con un occhio totalmente differente da dove guarda l'arbitro, perché la prendono da tutte le parti. Domenico, sono d'accordo con lei. Lei sa che il lunedì questo è un forum, sono quasi 10 anni che è così, è dedicato agli interventi degli ascoltatori. Io cerco, ho provato all'inizio a parlare a partire da Mascara e da Cozza, ma mi sembra che non ci sia verso, no? No, le chiedo scusa. No, anzi. No, speravo di poter parlare di aspetti tecnici del calcio, di aspetti schematici. Ieri ho visto delle azioni della Roma o delle azioni del Catania fatte in triangolazione tutte di prima, che in tutta sincerità è questo che vorrei che vedessero i giovani, non il comportamento di Balotelli, che è un ragazzo ed è giusto che sia così, ogni tanto si può andare fuori come lui, come tanti altri, cioè per carità, però le giocate sono quelle che ti fanno crescere. Io che spero di parlare di calcio, spero di parlare degli aspetti tecnici, no, o degli schemi, di quello che riesce ad improntare un allenatore su una squadra di calcio, cioè dove ci vede la mano, insomma. Domenico, senza dimenticare che siamo alla radio, quindi proprio poi mettersi con gli schemi e cosa, forse è più facile farlo quando c'è un supporto visivo. Però capisco il senso del suo intervento, tra l'altro lo condivido in pieno. Ieri, magari poi di questa ne parliamo domani, ma ieri ho sentito il solito telecronista su Sky, se parliamo appunto di un po' più di pallone, l'ho sentito urlare una volta come un ossesso e usare spendere i seguenti aggettivi per un gol: clamoroso, straordinario, fenomenale. E voi direte, vabbè, era per il gol di Mascara, e in fondo questi tre aggettivi, magari approssimati per eccesso, ma insomma ci stanno tutti, e ci starebbero tutti, sì. Invece questo strillava: clamoroso, straordinario, fenomenale per il gol di Pazzini a Genova, che è un bel gol, per l'amor di Dio, è un bel gol quello che Pazzini ha segnato al Milan. Però clamoroso, straordinario e fenomenale è come Bonera ha boccato la finta di Pazzini, non come Pazzini ha segnato quel gol, perché Pazzini ha fatto il suo molto bene. Ma se un attaccante, che tra l'altro è destro di piede preferibilmente, va sul fondo portandosi la palla sul sinistro e il difensore a quel punto entra in scivolata e si ferma soltanto addosso ai fotografi, coprendogli il sinistro anziché aspettare il rientro sul destro per calciare da un'angolazione più aperta, beh, insomma, io credo che so che ogni volta tra secolo davanti a queste performance da venditori di aspirapolveri, no? Anziché da telecronisti con la, anche perché, ripeto, bel gol quello di Pazzini, gran bel gol, niente da dire. Forse insomma, se ne sono visti altri, ecco, che meritano l'aggettivo clamoroso, straordinario, fenomenale. Clamoroso, straordinario, fenomenale, gol di Pazzini, mai. Carmine, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Il mio intervento è per le critiche eccessive che si stanno abbattendo sul calcio Napoli e sull'allenatore Rea. Sì. In quanto io sono del parere che molte persone dimenticano l'ottimo campionato del Napoli, no? Nella prima parte della stagione, e che questa flessione è dovuta in parte a un calo atletico, perché il Napoli ha iniziato la stagione con largo anticipo, no? Già a luglio. Certo. E poi perché in questa prima parte del girone di ritorno abbiamo incontrato le squadre più di prima fascia, Juve, Roma, Genova, Fiorentina, e quindi era inevitabile, Carmine, uscire, sì, con qualche sconfitta. Certo, senza dimenticare però che 2 punti nelle ultime 8 partite, mi pare questo sia il bottino, insomma qualche critica, qualche malumore mi pare lo autorizzino, senza esagerare, magari come lei dice, ma insomma qualcosina ci sta. Pietro Lacorte in regia, Flavio Suardi in redazione, grazie a tutti per essere stati con noi, ci risentiamo domani, vi lascio al giornale radio.